tratta di una lottizzazione a zolo predosa, la frazione Riale, via Catalani in particolare. Praticamente è una zona collinare a ridosso del parco Berlinguer. È un boschetto di una quindicina di grandi alberi e noi li abbiamo misurati ieri, una quercia di 2,70, un cipresso di 1,60. Poi ci sono dei cedri che vanno da 1,80 a 2, quindi sono alberi maturi. Il comune dice che non sono di pregio, per noi tutti gli alberi sono uguali, cioè non capisco con quale criterio, cioè in un momento in cui con i cambiamenti climatici abbiamo preso atto che l'unica strada per combatterli è aumentare il verde, aumentare le piante, non ci sono alberi più di pregio rispetto ad altri. Questi sono alberi maturi e vanno preservati. 15 alberi, ma nel progetto è prevista poi una ripiantumazione come spesso accade? Sì, sì, però questi sono alberi maturi, sicuramente vivi e che sono lì già da tanto tempo. Noi abbiamo esperienza di alberi appena piantumati che non resistono ai cambiamenti climatici perché fanno fatica ad attecchire e comunque prima di arrivare a svolgere la funzione che fanno i vecchi alberi passano 40-50 anni. Quelli attuali sono alberi maturi, quindi ospitano anche una microfauna di un certo tipo, mentre quegli alberelli che vengono messi scarni e miseri non ospitano nulla, insomma, per parecchi anni. Nel vostro comunicato segnalate che l'area appunto che contiene questi alberi dove il comune vorrebbe intervenire addirittura è vincolata. Io adesso cito: nel piano paesaggistico regionale è individuata come zona di particolare interesse paesaggistico ambientale e quindi tutti gli alberi che ci sono ricadono nella tutela del regolamento comunale del verde. Però il comune vuole derogare. Vuole derogare, però in realtà vengono costruite palazzine di lusso, cioè quindi derogare in una edificazione privata. Cioè noi abbiamo già contestato qualche anno fa, sempre nella zona di via Berlinguer, la realizzazione di villette, cioè il comune, se i privati hanno dei diritti acquisiti, li devono utilizzare dove si può costruire, non abbattendo alberi e andando a ridurre lo spazio verde delle aree comunali, insomma. Ma a suo avviso, visto che Riale non è l'unico caso, io prima ho citato le scuole Besta, ce ne sono anche altri, manca proprio una cultura amministrativa sulla salvaguardia degli alberi? Purtroppo gli alberi sono visti sempre come così, insomma, manca assolutamente, perché anche la gestione del verde spesso è fatta in un modo veramente, cioè senza, con disprezzo per la vegetazione, per gli alberi. Manca una cultura, cioè gli alberi vanno bene finché non danno fastidio, poi appena danno fastidio o perché le radici fanno dei danni o perché sporcano o perché si prevede di fare una rottizzazione, vengono tagliati, cioè si trova sempre il motivo per toglierli di mezzo. Voi il vostro obiettivo è fermare questo progetto? Sì, chiediamo che l'amministrazione, ovviamente l'amministrazione è andata avanti, rifletta e trovi una soluzione alternativa in un'area non verde, non disboscando, non togliendo alberi maturi, secondo noi di pregio come quelli che ci sono adesso in via Catalani.